2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 5 giugno 2010. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale è 2024@radio24.it. E come sempre vi ricordo che anche questa puntata sarà disponibile sul nostro sito internet www.radio24.it. La cosa migliore è sempre utilizzare il servizio podcast. Andate nella sezione appunto denominata podcast, troverete tutte le informazioni. Il file MP3 di 2024 sarà disponibile entro al massimo un'ora e mezza dal termine della trasmissione, quindi al massimo entro le 18.30 del sabato. Questa settimana non ci sono molte notizie che meritano una segnalazione. L'unica che vi faccio prima dei nostri approfondimenti riguarda il lancio di un nuovo razzo sperimentale, il Falcon 9, che è partito ieri da Cape Canaveral. Ricorderete che in occasione del discorso sul futuro dell'esplorazione spaziale americana, Barack Obama aveva annunciato che il ruolo dell'industria privata nel settore sarebbe aumentato. Per molti esperti il lancio di Falcon 9, che è un lancio di test, apre una nuova era per l'industria nello sfruttamento commerciale di voli spaziali. Uno degli obiettivi del nuovo vettore è quello di trasportare materiale scientifico e rifornimenti verso la Stazione Spaziale Internazionale e per questo è già stato firmato un contratto con la NASA da 1,6 miliardi di dollari. Ma in prospettiva potrebbe trovare posto sul lanciatore anche un piccolo gruppo di astronauti, un servizio, quello di trasporto di uomini verso la Stazione Spaziale Internazionale, che dalla fine di quest'anno, col pensionamento degli Space Shuttle, potrà essere effettuato solo dai vettori russi Soyuz, al modico costo di 50 milioni di dollari. E sapete che quest'anno sono previsti altri due voli dello Space Shuttle, uno a settembre, uno a novembre, e poi la navetta andrà in pensione, quindi in attesa di costruire nuovi vettori la NASA potrebbe utilizzare il Falcon 9 costruito dalla SpaceX, una società fondata 8 anni fa da Elon Musk, che è un ricco uomo d'affari noto, famoso nel settore della tecnologia per aver creato il sistema di pagamento online PayPal. È molto utilizzato soprattutto da chi usa eBay. Musk ha investito 100 milioni di dollari di tasca propria, ai quali vanno aggiunti altri 300 milioni sborsati dalla NASA per costituire la SpaceX. Ora parliamo, ed è il primo dei nostri approfondimenti, di internet in mobilità. Parleremo dell'infrastruttura esistente, della tecnologia, cercheremo di capire come vanno ad esempio le chiavette USB per navigare da PC e parleremo anche di alcune soluzioni alternative molto interessanti. Iniziamo però con alcuni dati elaborati dall'osservatorio Mobile Content and Internet che verranno illustrati lunedì a Milano. Questo è uno degli osservatori della School of Management del Politecnico di Milano. Sono numeri relativi al 2009. Ecco alcune anticipazioni da Andrea Rangone, responsabile scientifico di questi osservatori. Un mercato che ha perso nel suo complesso un circa 8%, come effetto però di due andamenti direi opposti. Uno è una forte crescita dei ricavi da quello che noi chiamiamo il mobile internet, cioè dalla navigazione su internet attraverso il telefono cellulare. Forte crescita che è stata degli oltre il 17%. Dall'altra parte però invece una riduzione abbastanza consistente invece dei ricavi provenienti da quelli che noi chiamiamo appunto mobile content, cioè dalla vendita di contenuti a pagamento, quindi premium, attraverso il canale cellulare, con contrazione di oltre il 20%. Potremmo leggere questa come una sorta di contraddizione del mercato: crescono gli utenti, la quantità di persone che voi tra l'altro stimate in 10 milioni di utenti unici al mese, quindi sicuramente un numero tutt'altro che irrilevante, crescono gli utenti ma diminuisce il fatturato del settore. È dovuto un po' al proprio momento, direi, storico che questo mercato sta attraversando, che è un momento di profonda trasformazione, di transizione, se vogliamo, da un paradigma più tradizionale, quello in cui la maggior parte dei servizi erano basati ad esempio sui famosi SMS, no? Ecco, parliamo dei servizi di SMS ad abbonamento, di informazioni, ecco. o dei contenuti tipo loghi e suonerie, no? Ecco, molto discussi negli anni scorsi. Quindi è un mercato che sta transitando da questo paradigma, da questi servizi tradizionali, a servizi più innovativi, quelli invece basati ad esempio sugli application store, no? Basti pensare all'app store di Apple. Ecco, in questa transizione quello che sta accadendo è un po' che diminuiscono fortemente i servizi più tradizionali, e anche se aumentano bene quelli più innovativi, però ecco, non compensano la riduzione di quelli tradizionali. L'effetto netto quindi è che si sta perdendo valore fatturato. Questo dovuto soprattutto al fatto che molte di queste applicazioni sono gratuite o per quale altro motivo? Assolutamente così, la maggior parte delle applicazioni sono gratuite, ma anche quelle a pagamento che ormai ci sono comunque generano ricavi abbastanza limitati, nonostante in forte crescita, però in valore assoluto questi ricavi sono ancora molto limitati, stiamo parlando di poche decine di milioni di euro contro un mercato complessivo di 1 miliardo di euro, quindi numeri piccoli ancora, anche se in forte crescita. Chi fa i soldi in questo settore? Direi che in questo momento le cose stanno andando particolarmente bene per innanzitutto gli operatori di telefonia mobile, questo dobbiamo dirlo, nel senso che sono loro evidentemente a generare questi ricavi da connettività mobile, da cellulare, quindi da mobile internet. Abbiamo detto che la componente di mobile internet sta crescendo molto, questi ricavi sono ad appannaggio di tutti gli operatori di telefonia mobile. Un'altra impresa, come sappiamo tutti, che sta facendo cose grandiose e che quindi sta guadagnando tanti soldi è Apple, che abbiamo appena sentito settimana scorsa e che ha superato come valore in borsa addirittura Microsoft. È invece più dubbioso è come riusciranno a guadagnare tutte quella miriade di altri attori, parlo in senso lato dei cosiddetti content provider, in cui ci metto dentro tutte le media company, gli operatori web, le major, eccetera eccetera, quindi tutta quella miriade di content provider che in questo momento in realtà stanno portandosi a casa ricavi molto limitati, anche se ci auguriamo tutti in futuro le cose possano cambiare. Era la voce di Andrea Rangone, che è responsabile scientifico degli osservatori della School of Management del Politecnico di Milano. Queste sono alcune, potremmo dire, pennellate di un rapporto di un'ottantina di pagine che verrà presentato e discusso lunedì al Politecnico di Milano, al campus della Bovisa, tra le 9.30 e le 14. All'interno di questo settore che abbiamo definito mobile internet, quindi internet in mobilità, una delle crescite più rapide è stata quella delle chiavette USB da collegare al computer portatile. Secondo dati GfK, nel 2009 sono state vendute nel nostro paese oltre 3 milioni e mezzo di chiavette USB e il mercato ha chiuso l'anno con una crescita delle vendite del 118%, quindi un mercato che cresce molto velocemente, molto intensamente. Oggi parliamo di questa tecnologia con Simone Zanardi, che si occupa di networking, dicono così i tecnici, al laboratorio di PC professionale. Simone, bentornato a 2024. Ciao Enrico e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dunque, tu hai fatto una serie di prove, di test, ci siamo sentiti per una prova di questo genere un paio di anni fa, allora oggi vorremmo anche capire come è cambiata la tecnologia, come sono cambiate le reti di telefonia mobile in Italia, perché stiamo parlando di un modo per connettersi ad internet che si appoggia, che sfrutta la rete di telefonia mobile. Partiamo dal test che hai fatto nelle ultime settimane, che cosa hai fatto? Beh, essenzialmente abbiamo analizzato l'offerta dei 4 principali operatori italiani, provando quindi le connessioni a internet utilizzando la rete cellulare nell'area del Milanese e dintorni, e verificando le reali prestazioni di connessione sia da fermi, quindi con un notebook stando stazionari, sia muovendosi ad esempio su un treno, quindi in reale mobilità, per verificare quali siano le reali prestazioni di un accesso a internet da rete cellulare. E di questo parleremo tra poco a 2024. Ci risentiamo tra un minuto. Connettersi ad internet in mobilità attraverso il telefonino, che diventa sempre più spesso uno smartphone, o con il computer portatile, è diventata una esigenza di molti, anche in vista delle prossime vacanze saranno molti quelli che avranno questa necessità, cioè quella di controllare internet ogni tanto anche se si è in vacanza. Allora oggi parliamo di questo settore in forte crescita, in modo particolare ci concentriamo sulla tecnologia d'accesso che ci permette di sfruttare la rete di telefonia mobile che si è evoluta nel corso di questi anni. Parleremo tra poco anche delle chiavette USB. Ma a proposito di tecnologia, Simone, con noi Simone Zanardi, che si occupa da tempo di questi temi e ha appena realizzato un test sul campo, perché un conto sono le velocità teoriche, quelle permesse dalla tecnologia o anche quelle a volte pubblicizzate un po' esagerando dalle società di telefonia mobile, un conto poi è all'atto pratico la velocità reale. Però dicevo, parliamo di tecnologia, noi eravamo abituati poco tempo fa a parlare solamente di UMTS, di 3G, poi ci siamo evoluti all'HSPA, che è uno step, un upgrade delle reti UMTS. Oggi parliamo addirittura di HSPA Plus, c'è un più di fianco a questa sigla. Simone, un po' di tecnologia. Sì, diciamo che cominciamo col dire che oggi siamo in piena maturità dell'HSPA come stato tecnologico della rete italiana. L'HSPA, come giustamente dicevi tu, è un'evoluzione della rete UMTS, quindi di terza generazione 3G, che permette di migliorare le prestazioni di connessioni dati, quindi non agisce tanto sulla parte voce, che peraltro non ha bisogno di prestazioni di chissà quale tipo, ma agisce sulle connessioni dati. E porta il limite teorico dai 384 kilobit dell'UMTS originale a una soglia massima teorica di 14,4 megabit al secondo. Quindi una velocità addirittura superiore a molti ADSL. Sulla carta esattamente, diciamo, stiamo parlando di analoga a una ADSL 2 Plus. Sì, sì. Oggi in Italia tutti gli operatori hanno quasi ultimato la copertura della rete con HSPA. Quindi con velocità nominale di 14,4 Mbps in downlink e fino a 7,2 in uplink. L'uplink è essenzialmente il canale di ritorno verso la rete, quindi la velocità con cui noi possiamo inviare dati alla rete. Sì, quindi diciamo, laddove esiste l'UMTS, il 3G, quella rete dei quattro operatori principali italiani, cioè gli operatori che hanno una propria rete, gli altri operatori sono operatori virtuali che sfruttano la rete di questi operatori, quindi è importante parlare di questi quattro. Diciamo, laddove c'è l'UMTS, quindi il 3G, esiste già l'evoluzione HSPA, che tu hai detto è uno step successivo. Infatti alcuni telefonini ci segnalano 3,5G, giusto per dire che stiamo a metà tra l'UMTS e il 4G che arriverà chissà quando, fra qualche tempo. Che cosa invece sta capitando per l'HSPA Plus? L'HSPA Plus si sta iniziando a diffondere in Italia. Siamo ancora agli inizi, ma gli operatori stanno iniziando in aree di maggiore sensibilità, quindi i grandi comuni, le grandi metropoli, a installare antenne e apparati d'accesso che permettono di fare l'upgrade della rete all'HSDPA Plus. L'HSDPA Plus o HSPA Plus essenzialmente porta il limite da 14,4 a 40 megabit, all'incirca 42 megabit al secondo. Il vantaggio essenziale è che stiamo parlando ancora di una evoluzione, quindi ancora di 3,5G, quindi interventi che non richiedono grandissimi interventi anche a livello economico sulla rete, permettono quindi agli operatori di evolvere la rete in modo graduale. Quindi sfruttare l'esistente e fare degli step successivi fondamentalmente. Esattamente. Però diciamo che al di là di qualche piccolo intervento che comunque è ancora spot, possiamo dire che se vogliamo identificare lo stato attuale della rete italiana, possiamo dire maturità dell'HSPA. E qualche spot qua e là, esatto, ma soprattutto in poche città dell'HSPA Plus. Abbiamo detto, abbiamo raccontato di alcune velocità, qua stiamo parlando di velocità teoriche, quindi che cosa la tecnologia ci permette di fare. Poi nella realtà dei fatti, visto che poi tu hai realizzato anche sul campo, sulla strada, questo test, come vanno le cose? In modo particolare l'HSPA, quindi l'evoluzione dell'UMTS, a quali velocità ci permette di navigare. Poi parliamo delle chiavette, parliamo insomma anche proprio dell'esperienza utente, ma siamo ancora dal lato rete, quindi dal lato dell'infrastruttura. Beh, diciamo che non è semplice rispondere a questa domanda. Partiamo dai dati di fatto, dai test. Le velocità che abbiamo rilevato nei nostri test, al di là del singolo operatore, possono essere identificate in una fascia da 1 a 2 megabit al secondo. Detto così, può sembrare molto di meno rispetto a velocità. È molto poco, uno dice, ma come? Rispetto ai 14,4 di cui parliamo. In realtà, ricordiamoci innanzitutto che velocità nominali che generalmente vengono comunicate sono le velocità a livello di rete, di accesso. Quando poi noi andiamo a misurare la velocità realmente disponibile alle applicazioni, quello che viene detto throughput, cioè quello che effettivamente il nostro, ad esempio un client FTP o un client di posta o anche il browser, la velocità che realmente è a disposizione dell'applicazione, generalmente già questo dimezza la velocità. E poi c'è il problema grosso della rete. La rete che essenzialmente si divide in due grosse parti. La rete di accesso, che è essenzialmente quello che va dal terminale, dal nostro terminale, fino alla rete centrale dell'operatore, quindi quello che è la struttura radio, il ponte radio, la stazione base a cui noi ci colleghiamo. Quindi il pezzetto che il segnale fa dal nostro computer, magari che è collegato con una chiavetta USB, fino alla prima cella, la prima antenna, che potrebbe essere o sopra di noi, se va bene, oppure anche a qualche chilometro di distanza. Esattamente. E poi c'è il backbone, quindi diciamo la struttura interna. La dorsale, che è quella che l'operatore utilizza per effettivamente collegare gli accessi in mobilità, gli accessi a rete cellulare a internet. Quindi immaginiamoli come dei grossi tronconi che danno poi l'effettivo accesso a internet dalla rete mobile d'accesso. Quindi qual è il problema? Che come tutte le tecnologie di accesso radio, queste tecnologie sono fortemente influenzate dall'affollamento della cella in cui noi ci muoviamo, da quanta gente sta scaricando, in che modo sta scaricando. Ricordiamoci che siamo in una fase in cui l'esplosione delle chiavette internet di cui parleremo, ma anche dei smartphone di ultima generazione, iPhone su tutti, ha moltiplicato il desiderio di accesso in mobilità e quindi anche gli effettivi accessi. Quindi ovviamente non abbiamo una prova concreta, ma è ragionevole ipotizzare che se fino a 2 anni fa, quando ci collegavamo con un internet chi ha internet, probabilmente eravamo tra i pochi a farlo, oggi ci sono tantissimi utenti che si collegano. Quindi collegarsi contemporaneamente a una cella rischia di saturare la banda di esposizione della cella. Da qui, questo è uno dei motivi che porta dalle velocità teoriche di 14,4 di cui parlavamo a questo 1-2 megabit al secondo, che intendiamoci è una velocità tutt'altro che disprezzabile. Ci permette di navigare su internet, quindi col browser, di scaricare posta, anche di usufruire di contenuti multimediali come lo streaming di video, ad esempio da YouTube, in modo agile, in modo confortevole. È chiaro che download massivi via FTP, grandi file, trasferimenti in uplink, quindi invio verso la rete, per non parlare del peer-to-peer, sono applicazioni che ancora mettono un po' alla corda queste tecnologie, ma è una navigazione che è tutto un altro pianeta rispetto a quello che facevamo qualche anno fa col GPRS. Cioè, stiamo parlando comunque di una navigazione agevole anche in mobilità. Certo, se uno comunque guarda pagine web, questa è una navigazione paragonabile a quella che noi abbiamo in casa, nella maggior parte dei casi. Poi parliamo anche della sostituzione del collegamento tradizionale via DSL, perché una delle domande che ci si fa, alla quale spesso rispondiamo di no, ma poi spieghiamo anche il perché, è queste tecnologie possono sostituire il cavo tradizionale, quindi il doppino di rame e per i più fortunati la fibra ottica. Quindi mi pare di capire che gli operatori sono schiacciati tra il desiderio e l'esigenza che cresce sempre più degli utenti di navigare in internet, di collegarsi ad internet in mobilità, dal telefonino, dallo smartphone oppure da un computer portatile collegato con una chiavetta USB, e la disponibilità di banda che non è infinita, e lo ripetiamo spesso, soprattutto via etere le risorse sono scarse e da condividere, quindi ci sono due elementi da tenere in considerazione. Poi certo, gli operatori fanno il loro gioco, quindi non sempre questo gioco è a favore dei consumatori, ma parliamo poi anche di tariffe senza entrare troppo nel dettaglio, ma giusto per dare qualche pennellata. C'è un'altra parte di questo sistema che è il terminale, tu lo hai ricordato prima. Non parleremo tanto degli smartphone, ma ci concentreremo sulla navigazione via computer, che è fatta, diciamo, nella maggior parte dei casi con le chiavette USB. Da questo punto di vista, c'è qualche cosa da sottolineare o le chiavette USB sono ormai mature, standard, facili da utilizzare senza problemi? Beh, diciamo che sicuramente anche qui si è raggiunta una maturità che 2 anni fa non era ancora ottimale. Diciamo che le chiavette USB ne esistono di centinaia di modelli. Quello che le accomuna è la semplicità d'uso. Ormai una chiavetta USB si acquista, la si collega al notebook o al netbook, si autoinstalla, al suo interno già il software di configurazione ed è essenzialmente pronta all'uso. Quindi essenzialmente è un modem che viene installato tutto in maniera automatica, apre il suo software di connessione, clic su un pulsante e siamo connessi. Quindi realmente è un tipo di accesso molto semplice da utilizzare, anche per gli utenti assolutamente alle prime armi con questo genere. Senti, dicevamo prima della sostituibilità della DSL, cioè se uno, come capita in alcuni casi, non ha la rete fissa in casa o nell'ufficio, può pensare di sostituire il collegamento ad internet con un'offerta di questo tipo, quindi basandosi sulla connettività HSPA, 3G, eccetera, eccetera? Beh, anche qui la domanda è da $1 milioni, cioè da un lato possiamo dire che la velocità, come dicevamo, per molte delle applicazioni che utilizziamo è più che sufficiente. C'è il discorso commerciale e se vogliamo guardare puramente il canone mensile, anche qui alla fine siamo ormai al di sotto dei 20 euro, quindi anche qua non è che stiamo spendendo un capitale al mese. È un discorso di approccio, cioè innanzitutto non c'è nessuno che dia una vera e propria flat. Comunque c'è un limite di traffico al mese, nel canone incluso mensile, poi chiaramente se si eccede si paga di più. Quindi sia il profilo a tempo, sia il profilo a volume, poi se vuoi ne parliamo meglio. Comunque in ogni caso c'è un tetto mensile, quindi se pensiamo di lasciare il computer sempre collegato a scaricare file di grandi dimensioni... Sì, cosa che non andrebbe fatta, ma purtroppo il mercato ci offre insomma delle esatto. devianze umane. Quello assolutamente non va fatto. E poi in generale comunque le velocità reali sono comunque superiori a quelle di una DSL, quindi per applicazioni parecchio intensive, ribadisco, il cavo è ancora meglio. Se per esempio faccio anche esempio, come in termini di performance, assolutamente performance, affidabilità, sì certo, non c'è dubbio insomma che il cavo sia meglio dell'etere per la connettività ad internet. Siamo per il cavo, potremmo utilizzarlo come slogan. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, ci fermiamo per qualche minuto, vi aspettiamo tra poco. ...2024. Seguiteci ogni settimana, andiamo in onda nel pomeriggio del sabato di Radio 24 tra le 16 e le 17, ma come sempre vi ricordo che ci trovate molto velocemente online sul nostro sito internet, entro al massimo un'ora e mezza dalla fine della nostra trasmissione, quindi entro al massimo le 18.30 del sabato, trovate il file MP3 di 2024 scaricabile attraverso il servizio podcast. Come sempre per questo ringraziamo i nostri tecnici, oggi in regia Carmelo Lauricella. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Tra poco parleremo di capitali del mondo della finanza che è sempre più attento alle start-up, alle giovani imprese, alle giovani idee. Di questo parleremo tra poco, 2024. Adesso stiamo parlando della connettività alla rete internet in mobilità. Siamo con Simone Zanardi del laboratorio di PC professionale. Simone, tu hai fatto riferimento poco fa a due tipologie. Si dividono diciamo in due le offerte degli operatori italiani, o a volume o a tempo. Spieghiamo di che cosa stiamo parlando. Essenzialmente è facile indefinire. La tariffazione della nostra offerta internet può essere effettuata con due modelli. L'operatore può conteggiare per quanti minuti rimaniamo collegati, quindi una tariffa a tempo, oppure quanti dati scambiamo con la rete, quindi una tariffa a volume. Chiaramente quasi tutte le offerte hanno un monte traffico mensile comprensivo nel canone che paghiamo e poi, superata quella soglia, andiamo a pagare extra. Però questo monte mensile può essere conteggiato appunto in base al volume o in base al tempo. Quale delle due offerte scegliere? Anche qui la risposta non è univoca. Diciamo che tradizionalmente si identifica la tariffazione a volume più adeguata per chi ha un traffico di tipo spot, cioè tipico, scarico la posta, quindi la scarico in 2 minuti, mi metto a leggerla, non mi disconnetto, ma sono comunque collegato, però avendo una tariffazione a tempo, a volume, mentre la leggo, non sto spendendo nulla, perché non sto trasferendo dati. Se invece ho una tariffa a volume, chiaramente anche se non trasferisco anche se non trasferisco nulla, se pago. La tariffa a tempo sto pagando. Sto consumando, insomma, il monte. Diciamo che oggi se una persona naviga soprattutto sul web, quindi pagine internet, magari con aperto il client di Instant Messaging come Messenger, aperto magari il client di Twitter o di Facebook, è difficile che il computer non generi del traffico, cioè comunque un minimo di traffico di controllo c'è. Da questo punto di vista potrebbe sembrare che le tariffe a tempo siano più adeguate. C'è poi un problema grosso che è quello degli scatti temporali, che non c'entrano tanto con la differenza tra tempo e volume, ma un problema delle tariffe a tempo. Cioè la maggior parte degli operatori italiani utilizza un sistema a scatti anticipati di un quarto d'ora, 15 minuti. Vuol dire che se io mi collego a internet e dopo un minuto mi disconnetto, se ho una tariffa a tempo, quasi sicuramente, nella maggior parte dei casi, spendo come se fossi stato collegato 15 minuti. Se sto collegato 20 minuti è come se fossi stato collegato mezz'ora. E per di più, se per qualche problema di rete mi cade la connessione e mi riconnetto, il conteggio riparte da capo. Quindi più che un problema volume o tempo, c'è questo discorso degli scatti che non è sempre trasparente, ben indicato nelle offerte, nessuno ci trae in inganno. Però non è corretto. Bisogna tenerne conto. Sì, anche perché poi se uno si collega in, visto che queste offerte sono pensate anche per chi ha esigenze di mobilità, e quindi ad esempio tu hai citato prima il tuo caso nei test, ma anche io a volte lo utilizzo in questo modo, se uno si collega in treno, la capacità di mantenere la linea su un treno, magari ad alta velocità, non è certo garantita. Allora, se cade la linea, perché mai io dovrei pagare, sprecare 15 minuti di volta in volta? C'è qualche operatore, mi pare che Tre sia forse quello più aggressivo in questo caso, e va detto e riconosciuto che in questo caso la tariffazione viene fatta a secondi, quindi se mi cade la linea non succede nulla. Poi sulle tariffe potremmo spendere minuti e minuti e minuti, insomma, come sempre il consiglio è analizzatele con estrema calma e, insomma, analizzate anche la vostra situazione. C'è un altro capitolo molto interessante che è quello dei modem 3G Wi-Fi, e spieghiamo di cosa stiamo parlando. È possibile che noi abbiamo necessità di collegare più computer tramite un accesso singolo alla rete cellulare. In questo caso possono tornare utili i cosiddetti router 3G, cioè i router che contengono al loro interno un modem o possono essere collegati a un modem che si collega alla rete cellulare e poi condividono l'accesso su uno o più computer. Ne esistono di svariati tipi. Diciamo che le applicazioni più tipiche sono l'installazione di una piccola rete in situazioni o di emergenza, ad esempio una piccola sala congresso improvvisata in un albergo dove non è possibile connettersi via Wi-Fi, oppure per la casa in montagna, la casa al mare, un'abitazione in cui non abbiamo la linea ADSL, allora portiamo il nostro accesso via rete cellulare e tramite il router possiamo condividerlo su più computer o dispositivi. Cioè io in spiaggia, nelle prossime vacanze o in un bel bosco in montagna potrei avere il mio modem 3G che si connette alla rete di telefonia mobile, fare un bel hotspot e con tutti i miei amici, collegare, diciamo, dopo pranzo guardiamo la posta. Esattamente. Tutti si connettono. Esattamente. Certo, perché in vacanza potremmo anche limitare, però. Diciamo che lo schema di utilizzo tipico di questi dispositivi è: si connettono tramite rete cellulare a internet e poi tramite Wi-Fi condividono la connessione tra più dispositivi. Ce ne sono di diverso tipo, ci sono i dispositivi più portatili come il MiFi di Novatel, che addirittura ha al suo interno una batteria, quindi è autonomo anche dalla rete elettrica, quindi totalmente wireless. Si connette via wireless a internet, condivide via wireless verso i terminali e grazie alla batteria non ha neanche bisogno di connessione elettrica. Ha il modem integrato, quindi inserisco la SIM dell'operatore e sono a posto. Altri dispositivi permettono non di inserire la SIM, ma di collegare la chiavetta USB. Quindi la chiavetta USB che stavo usando fino a 2 minuti fa per collegarmi dal notebook, la stacco dal notebook, l'attacco al modem, alla router, e posso condividere lo stesso accesso tra più computer. E poi ci sono i dispositivi che ovviamente sono più economici, che non hanno la batteria integrata, quindi richiedono la connessione alla rete elettrica, poi distribuiscono via Wi-Fi il collegamento. Senti, questi strumenti quanto costano? Poco, molto? Non costano pochissimo, variamo diciamo dagli 80 euro dei modelli più economici, tipicamente quelli senza batteria, ai 250 euro dei modelli più avanzati, compatti, con modem integrato, quindi che non richiedono la chiavetta USB e che hanno la batteria. Tipo il MiFi, scritto MiFi. Esattamente. Esattamente. Certo, queste sono soluzioni soprattutto pensate anche per chi ha magari più di uno strumento, che ne so, WiFi, e può utilizzare questo modem per poi collegarsi alla rete di telefonia mobile. Ultimamente parlavo con una persona, dicevo, io ho comprato un iPad solamente Wi-Fi, quindi ho speso molti meno soldi rispetto alla versione 3G, perché ho un router 3G che utilizza, tanto parliamo di cose molto piccole se non sbaglio. Sì, assolutamente, i modelli più compatti sono poco più grandi di un porta carte di credito. Diciamo anche, Simone, che la stessa cosa o comunque una cosa simile la si può fare con un telefonino, con uno smartphone che abbia connessione 3G e quindi si possa collegare ad internet e abbia anche la connessione Wi-Fi che possa quindi condividere con altri strumenti. Per ogni sistema operativo, per i vari sistemi operativi, ci sono software sia gratuiti sia a pagamento che permettono di trasformare il nostro telefonino in un modem per connettere appunto strumenti che sono solamente Wi-Fi. Grazie a Simone Zanardi dal laboratorio di PC Professionale, buon lavoro, a presto e anche forse buone vacanze. Ciao Simone. Ciao Enrico, alla prossima. Adesso cambiamo argomento, ultima parte di 2024 dedicata alle start-up, potremmo dire così. Lunedì, vi ricordo, la rete dei Business Angels italiani, che ha un acronimo molto facile da identificare e anche da trovare su internet, ovvero IBAN, organizza un convegno per parlare degli investimenti in capitale di rischio. Anche in Italia sta crescendo, seppur lentamente, con dimensioni sicuramente diverse rispetto ad altri paesi come gli Stati Uniti. Dicevo, sta crescendo un mercato di società o singoli investitori che si rivolgono alle giovani imprese, alle start-up, alle giovani idee. Ne parliamo con Emil Abirashid, che da anni si occupa di questo argomento, di questo tema. Benvenuto a 2024. Grazie Enrico e saluto a tutti gli ascoltatori. Noi ci conosciamo da un po' di tempo. Emil Abirashid è un giornalista che da tanti anni segue questo sistema, chiamiamolo così, che gravita attorno alla parola innovazione, alla quale poi si possono collegare moltissime cose. Io più di una volta ho partecipato ad uno degli eventi che tu hai organizzato negli ultimi anni, dove gli investitori incontravano i potenziali imprenditori, e devo dire che tutte le volte mi sono stupito di quanti sono intanto i giovani che hanno delle idee e di quanti siano anche i potenziali investitori. Noi pensiamo e diciamo spesso che una delle cose più difficili è trovare i capitali per far crescere le nuove idee. Allora volevo subito da te capire qual è il quadro all'interno del quale ci muoviamo oggi e che cosa esiste. Cioè, esistono gli innovatori, esistono i giovani che hanno le idee in Italia, esistono i finanziatori? Tanti punti interrogativi. Sì, in realtà è proprio così. Questo ecosistema dell'innovazione, alla quale io aggiungo innovazione che si fa impresa, cioè di quell'innovazione che cresce e si sviluppa con l'obiettivo di creare del valore, è un ecosistema che negli ultimi 4 anni, 5 anni è cresciuto esponenzialmente. Oggi siamo in una situazione che vede un buon numero di giovani che hanno idee e che hanno sviluppato la sensibilità necessaria per trasformare queste idee in imprese, e attorno a questo fenomeno si è creato un ecosistema appunto dove ci sono altri attori che aiutano queste imprese a svilupparsi. Questi attori sono quelli di carattere finanziario, gli investitori in capitale di rischio come i venture capital o i business angels, ci sono gli incubatori che sono originariamente di carattere pubblico, stavano dentro le università e dentro i parchi scientifici, oggi invece sono nati anche incubatori di tipo privato. E questo è un altro segnale dell'evoluzione di questo ecosistema. Ci sono le università stesse che si danno a fare, i parchi scientifici e tecnologici che funzionano anche loro con azioni a supporto di queste startup. E poi ci sono attività come per esempio quelle che faccio io come Startup Business, che è la community di questo ecosistema di innovazione, percorso di innovazione che è l'area delle startup che organizzo dentro SMAO e anche la rivista Innovazione che è un po' la voce di tutto questo ecosistema. Bene, di questo continueremo a parlare tra un minuto. Ultima parte di 2024, parliamo spesso dell'evoluzione, dell'innovazione tecnologica. Tutte queste trasformazioni offrono anche grandi opportunità per creare nuove imprese, per mettere a frutto le idee che nascono anche in Italia. L'esperienza di tutti i giorni ci dimostra che spesso le idee e le capacità di metterle in cantiere le abbiamo. Sono molti gli italiani capaci di trasformare le idee in imprese. La cosa positiva è che negli ultimi anni, avete sentito, sta crescendo, seppur lentamente, un sistema di investitori che può velocizzare questo processo. Questo è importante anche per il sistema paese, per le industrie italiane che si devono trasformare e adeguare alla situazione internazionale. Ne parliamo con Emila Birashid che da tempo segue questo settore, ha fondato un network che si intitola Startup Business. Diciamo due cose sugli attori di questo sistema, ce ne sono tanti con dei nomi anglosassoni a volte difficili da capire, Emila. Gli incubatori tipicamente offrono alle aziende neonate dei servizi che vanno dal semplice ufficio con la connessione internet e telefonica a servizi che ne facilitano la crescita nel muovere i primi passi, quindi magari anche al supporto di tipo fiscale o di tipo finanziario. Considera che la maggior parte di questi giovani che hanno idee nascono come ricercatori o come tecnici e quindi devono imparare a diventare anche manager delle aziende che mettono in piedi, quindi gli incubatori li aiutano un po' in questo. Poi aiutano anche queste startup a farsi conoscere, a sviluppare reti commerciali, ad andare sul mercato, eccetera. I venture capital e i business angels sono tipicamente coloro che finanziano questo tipo di attività. I business angels hanno un approccio un pochino più informale, sono abbastanza presenti in Italia, c'è una rete che si chiama IBAN, che è la rete dei business angels, c'è un altro gruppo di investitori di questo tipo che si chiama Italian Angels for Growth. Ecco, questi signori tipicamente investono in aziende cosiddetto in quella fase cosiddetta early stage, quindi le primi momenti di vita, quindi anche gli investimenti sono di solito attorno al €500.000 e portano queste aziende oltre al capitale anche esperienza, quindi anche conoscenza di management, contatti nel mercato, eccetera. E tipicamente questo tipo di investitore investe soldi propri. I venture capital invece gestiscono dei fondi che possono avere valore anche diverse centinaia di migliaia di euro e investono cifre di solito più grosse, quindi investono in queste aziende quando sono in una fase un pochino più avanzata, e cifre più grosse che possono andare dall'1 ai 5 milioni di euro. Entrambi questo tipo di investitori in cambio ottiene una quota dell'azienda. E a questo scenario si aggiunge anche lo scenario dell'investitore industriale, cosa che sta partendo in Italia in queste settimane, i primi casi ci sono, e ciò dimostra, questo è importante perché dimostra che anche il tessuto imprenditoriale, cioè le industrie piccole, medie e grandi di questo paese, comunque consolidate, stanno iniziando a capire che nelle start-up nascenti ci sono delle innovazioni interessanti. E tu immagina un scenario dove da una parte hai un'azienda con un brand conosciuto, una rete commerciale, una struttura, che però ha bisogno di innovare e non riesce a farlo facilmente o sufficientemente rapidamente. Dall'altra parte hai la startup che è tutta concentrata con l'innovazione, struttura molto leggera, quindi molto flessibile, però non ha una rete commerciale, non ha presenza internazionale, non ha un brand conosciuto. E ove ci sia una comunità di interesse di tipo industriale tra queste due cose, il cocktail è esplosivo. Sì, questo è interessante, anche perché immagino che in questo modo alcune aziende, magari con grande tradizione italiana, riescano a trovare nuovi mercati, nuovi prodotti, anche a rinascere in alcuni casi. Sembra quindi di capire che attorno alla tecnologia, perché di fatto stiamo parlando di tecnologia, almeno per buona parte, sì, sì. Innovazione tecnologica, ci sia del business, altrimenti tutti questi soggetti non esisterebbero. Assolutamente sì. Infatti il fenomeno importante è quello, cioè la capacità di tradurre un'idea tecnologica in un qualcosa che può generare del business. Ora, poi dipende anche un po' dai settori nei quali si opera e quindi anche lì i tempi di sviluppo hanno differenze. Se io sviluppo un nuovo farmaco prima di 10 anni non riuscirò ad andare sul mercato, ma per questioni proprio pratiche. Se sviluppo un software e entro ho un servizio online su internet, se entro 3 anni non vedo che il business gira, probabilmente mi metto a fare qualcos'altro. Sì. Infatti queste startup, oltre all'idea, devono sviluppare il cosiddetto business plan. Il business plan è un documento che contiene l'idea stessa e spiega perché è innovativa, contiene la descrizione, il profilo del team che sviluppa questa idea, il mercato al quale si vuole andare a riferire, i tempi e le modalità con le quali intende fare business. E questo business plan poi viene presentato agli investitori, che possono essere industriali o puramente finanziari, i quali decidono se investire o no. Detto ciò, uno potrebbe pensare, allora, essendoci così tanti attori, e soprattutto tu hai detto una cosa importante, c'è stata una crescita esponenziale negli ultimi anni, allora forse è facile, così come accadeva qualche anno fa negli Stati Uniti, anche negli Stati Uniti adesso le cose sono un po' cambiate, è facile ottenere finanziamenti e creare una nuova azienda, sì o no? Dipende da quanto buona è la tua idea, da quanto tu hai intenzione di dedicarti a questa idea. Insomma, quando nasce una startup i primi 3 anni sono lacrime e sangue, cioè devi impegnarti al 100%, dipende da quanto sei bravo a svilupparla, dipende da quanta credibilità riesci ad avere sia dal punto di vista dell'idea innovativa, sia dal punto di vista della capacità di business, ma soprattutto da quella del tuo team, che è una delle cose che gli investitori guardano maggiormente, allora può accadere. Non è facile. Quindi tu mi dici, quando io vengo agli eventi che tu organizzi, sì, che vengono organizzati in Italia, vedo tanti giovani che fanno la fila e che magari parlano per 5 minuti o 10 minuti con i vari investitori, comunque buona parte di questi poi alla fine riescono ad ottenere finanziamenti, cioè a creare un'azienda. Non è escluso, non si può dare una valutazione in percentuale, però io sto vedendo che i cosiddetti deal, cioè gli investimenti da parte degli investitori o delle industrie nelle startup, stanno crescendo di numero. È chiaro che magari ne devi fare 5, 6, 10, 20 di queste presentazioni, devi farti conoscere, devi partecipare agli incontri, devi crearti anche una rete di cose, di relazioni in questo ecosistema, devi probabilmente tornare più volte dallo stesso investitore prima di ottenere qualche cosa, perché in uno scenario così rapido, insomma, se ci vai oggi ti dice magari di no, fra 6 mesi la situazione è cambiata, perché magari ti ha detto di no perché ha appena investito una roba molto simile alla tua, non perché la tua è cattiva. Bene Emilio, io ti ringrazio per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. Grazie a tutti. E così chiudiamo questa puntata di 2024. Tra poco troverete il file MP3 della nostra trasmissione. Se ancora non lo avete fatto, beh, vi consigliamo di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast. In questo modo potete avere settimana dopo settimana aggiornato, subito dopo la nostra trasmissione, il file MP3 di 2024. Come sempre grazie per la vostra attenzione, grazie anche ai nostri tecnici, oggi in regia Carmelo Lauricella. C'è anche Anita Panizza da ringraziare in redazione. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024, quindi 2024, @radio24.it. Ci risentiamo la prossima settimana, sempre il sabato tra le 16 e le 17. La prossima settimana ci occuperemo di mondiale di calcio. Che cosa c'entra un programma di tecnologia con il pallone? Beh, nelle ultime settimane avrete sicuramente ascoltato e sentito dei nuovi nomi collegati al calcio. Si è parlato di alta definizione, di 3D, di altre tecnologie. Beh, faremo il punto della situazione, alcune puntualizzazioni, alcuni approfondimenti che queste tecnologie sicuramente meritano. Allora, appuntamento tra 7 giorni, adesso buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.